con Lisa Ferlazzo Natoli per La Caduta al Cometa Off, Teatro Cometa Off, dal 6 al 9 di luglio. Lisa, eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao, eccoci, come stai? Ciao, molto bene. Molto. Quando si lavora con i giovani si sta bene. Allora, un progetto Casa d'Argilla al Teatro Cometa Off. Il Centro Internazionale della Cometa, esatto. Questa accademia virtuosa che permette sempre ai registi di lavorare liberamente con le regie finali con i loro allievi. Allora, raccontaci un po' come nasce questo nuovo progetto. Ma questo nuovo progetto nasce prima di tutto da una riflessione su quale scritture, cioè da dove prendere poi quella cosa che diventa il palcoscenico. Quindi in qualche modo è cambiata una prospettiva. Quindi siamo partiti da un testo letterario che io chiamo un breve racconto teatrale, una scrittura molto particolare di Giulio Ramazza, formidabile smontatore di generi e di testi, dal genere poliziesco alle grandi, grandi affreschi sul potere. In questo caso è un racconto formidabile in cui un segretariato politico formato da 15 uomini, tutti belli seduti, fa anche la pianta di un Remat a tavola, definiti soltanto da una lettera e dal loro ruolo nel governo, e all'interno di questa stanza, nell'arco di una giornata, per un imprevisto, succede un rivolgimento formidabile. Ed è letteralmente un racconto teatrale, perché Diurre scrive sì con la narrazione, con il punto di vista di uno dei personaggi, ma allo stesso tempo quasi sfiora l'Erich Böll di Foto di signora, adesso non ricordo il titolo del libro, cioè c'è questa alternanza fra riflessioni monologanti e azione letteraria che già però è spinta verso il palcoscenico, anche perché Diurre è un formidabile drammaturgo tra le altre cose. Ed è un grande affresco sul potere e sui giochi del potere, come se fosse una scacchiera. Pronto? Sì, io ti sento benissimo. Scusatemi per un attimo. E che cosa abbiamo fatto? Siccome gli attori sono 7, l'idea condivisa con i ragazzi, nata assieme ai ragazzi, perché questo romanzo teatrale ha previsto una scrittura scenica collettiva e loro di disegnare un modo di stare in scena, di asciugare il testo, di rigirarlo. I personaggi sono 15, i ragazzi sono 7, quindi abbiamo lavorato con 8 meravigliosi pupazzi costruiti dai ragazzi a forma d'uomo, con i loro bei completi e con delle teste di animali, che però non vi dico quali sono perché andrete a scoprirli. Certo. E quindi, come dire, questo potere che fa diventare pupazzi e tutti marionette e burattini, che è anche formidabilmente comico, è molto inquietante a tratti, non lo spettacolo, questo lo valuterà il pubblico, però il dispositivo ha qualcosa di allucinatorio che mi ha fatto tanto pensare, ma che lo hanno quasi prodotti i ragazzi, all'Angelo Sterminatore, questa stanza chiusa, sì, questi pupazzi, sì, che sempre più vivono e meno rispondono all'attore, no? Anche un po' Fattoria degli animali. Assolutamente. Proprio la metafora è quella, anche perché Diurre Matè è comico. Cioè, pur facendo una descrizione raggirante dei meccanismi del potere, la scrittura è in qualche modo brechtiana, quindi permette immaginazione su immaginazione divertentissimo. Decisamente non è un testo cupo, sì, e tra l'altro nella sua sciocchezza durerà meno di un'ora, cosa di cui sono molto felice perché di solito sono lunga. Senti Lisa, ma potrebbe essere radiofonico? Secondo me sì, proprio per la sua matrice letteraria, quindi sarebbe bello venirlo a fare da te. Bene, bene, allora segniamo. Tu verrai e ci darai conferma, certo, di questa cosa, certo. Ma direi proprio di sì, okay. Proprio per la scrittura, per il linguaggio di Diurre Matè, c'è tutto in descrizione, non manca niente. Senti, ma dopo questa 3 giorni che succederà? Della Caduta o della Casa d'Argilla? Della Caduta. Della Caduta lo metteremo a riposare, perché come tutti i dispositivi brechtiani in realtà apre, potrebbe essere approfondito enormemente, e credo che se i ragazzi si organizzano, ce lo chiedono, come noi facciamo spesso, no, abbiamo questa sezione granai dei giovani, lo riprenderemo con loro. E invece mi dicevi che si muovono diverse cose per la Casa d'Argilla. Sì, siamo contenti perché intanto stiamo lavorando a un progetto che mi è carissimo, mi era nei cuori, nella testa, lei di Gianluca Ruggeri, il compositore musicista con cui lavoriamo sempre anche per IFA, e che è un progetto dedicato ai 4 poeti della rivoluzione russa e alla rivoluzione russa per Roma Europa, che sarà nella settimana proprio della rivoluzione russa, dal 22 al 28 ottobre, chiaramente calendario giuliano, ovvero quello degli ortodossi, e non gregoriano, perché per noi sarebbe novembre. Mm-hmm. Ed è una grande dedica alla bellezza e a tutto quello che, prima che la rivoluzione si trasformasse in Soviet, ancora prima che si innescasse la rivoluzione in senso stretto, quindi il colpo di stato di Lenin, si era mosso in Russia a livello teatrale, di danza, Russia in Europa, che dalla Russia si è innescata in Europa, a teatrale, di danza, di musica. Quella rivoluzione artistica ha generato poi la possibilità di una rivoluzione del popolo russo, tanto che Reed, giornalista, racconta appunto quando andava al fronte, che questi contadini smunti, senza cibo, senza niente, che stavano difendendo le linee bolscevichiche, la prima cosa che gli chiedevano: avete qualcosa da leggere? Che è commovente, no? Sì. Quindi siamo partiti da là. Era un progetto molto caro, per cui veramente ringrazio Roma Europa, perché c'è stato un dialogo costante, tanto che inseriremo anche dei piccoli estratti da Reed, i 10 giorni che sconvolsero il mondo. Mm-hmm. Quindi la prospettiva dell'americano socialista, no? Sì. Per far incontrare questi due mondi. E la terza cosa è che ripartiamo con ISP, questa volta con un progetto biennale sovvenzionato, come si deve, a lento rilascio. Mm-hmm. Di cui appunto questa prima tappa fiorirà con Anni senza fine di Simac, che si sparpaglierà per la città, prima con una scatola sonora a puntate, quindi ognuno potrà sentirne solo una puntata, o se vuole seguirle tutte dovrà conoscere Roma sparpagliandosi. Mm-hmm. E che si concluderà il 27 agosto nello spazio all'aperto di Teatro India, che io chiamo spazio De Chirico perché è metafisico, bellissimo, con tutto Simac. Mm. E Anni senza fine, con due puntate in più che non sono sparpagliate nella città, quindi con un finale sorpresa. Senti, per saperne di più, tutti i riferimenti sul web, a partire web dalla pagina della Casa d'Argilla. Esatto, sì, la pagina, esatto. Facebook. Non, okay, abbiamo ancora il sito perché non abbiamo il tempo, quindi me ne vergogno molto, ma questo è beh, meglio così, se non si ha il tempo. Infatti, vuol dire che si è molto impegnati. Siamo molto analogiche probabilmente ancora, quindi c'è qualcosa in noi che resiste, sbagliando, per carità. Allora, ricordiamo La Caduta al Teatro Cometa Off dal 6 al 9 luglio questo fine settimana. Lisa, ci vediamo lì. Bene, sono molto contenta. Buon lavoro e ciao a tutti. Un abbraccio, ciao. Ciao Federico, un abbraccio, ciao.